ma muore, però dubito che il problema si risolva così. Innaffiamo il Vaticano con il DDT, ammazziamo tutti i preti, salviamone solo 8 per 1000, diamo fuoco alle chiese, fiamme scintille, prendiamo i cardinali, facciamoli sottomizzare da sieropositivi ma senza goldone, se no è morale. Nel nome dei padri, dei figli e del mio spirito canto che dei vostri privilegi questo popolo è stanco. Con i vostri anelli d'oro ci sfamiamo mezzo mondo, il Papa veste Prada, abbiamo toccato il fondo. Benvenuto in questo circo, i miracoli a Lourdes. Padre Pio, per le stimmate fatele pure tu. Le magliette, i cappellini, coniamo Gesù. Jesus Christ Superstar, più di Piero Pelù. A questi preti piacciono molto i bambini, ma a questi preti piacciono molto anche i... Li fanno inginocchiare in cappella, si fanno leccare la... Combattono la piaga dell'omosessualità, che per loro rappresenta la prima priorità. E fa niente se è finita la messa, poi si inculano. Se due uomini si baciano si indignano. Nel nome dei padri, dei figli e del mio spirito canto che dei vostri privilegi questo popolo è stanco. Con i vostri anelli d'oro ci sfamiamo mezzo mondo, il Papa veste Prada, abbiamo toccato il fondo. Benvenuto in questo circo, i miracoli a Lourdes. Padre Pio, per le stimmate fatele pure tu. Le magliette, i cappellini, coniamo Gesù. Jesus Christ Superstar, più di Piero Pelù. Ave Maria, piena di grazia, piangi tanti soldi che la chiesa ringrazia. E se poi era tutto finto, cosa vuoi che sia? Confessiamoci e facciamo tutti l'eucarestia. È una carestia di intelligenza, l'ignoranza regna ovunque, per loro è un'esigenza. E tu devi scegliere tra testa o croce, una la tieni al collo, l'altra la butti veloce. Accusa numero uno, pedofilia. Numero due, amato e morto in croce, necrofilia. E poi una vergine che partorisce il Messia. Questa vostra religione è pazzia. E accusatemi pure di eresia. Io mi sono laureato in blasfemia. E se chi è senza peccato scaglia la prima pietra, l'ultima a tirare di sicuro la chiesa. Nel nome dei padri, dei figli e del mio spirito canto che dei vostri privilegi questo popolo è stanco. Con i vostri anelli d'oro ci sfamiamo mezzo mondo, il Papa veste Prada, abbiamo toccato il fondo. Benvenuto in questo circo, i miracoli a Lourdes. Padre Pio, per le stimmate fatele pure tu. Le magliette, i cappellini, coniamo Gesù. Jesus Christ Superstar, più di Piero Pelù. E questa era dedicata alla Chiesa Cattolica e a tutte le altre chiese che tentano di abbellire le nostre catene per farcele sopportare meglio. Ma noi siamo stufi delle vostre catene. Noi vogliamo la libertà. E quindi andate tutti a farvi fottere.